Non so quali considerazioni abbiano spinto il buon Prodi e gli altri leader del centro-sinistra a dichiarare che la cessione del 17% di Mediaset, che ha portato poco meno di 2 miliardi e 200 milioni di euro nella cassaforte di famiglia del Presidente del Consiglio, è una pura operazione finanziaria e come tale va giudicata. Intendevano, immagino, inficiare a priori qualsiasi pretesa berlusconesca ad aver annullato in tutto o in parte il conflitto di interessi, e ci mancherebbe altro, visto che oltre al contante al cavaliere resta il controllo dell'impresa, per cui quel conflitto semmai si aggrava. E il fatto che venga in parte monetizzato non lo rende meno significativo dal punto di vista sostanziale e formale. Ma in ogni caso un qualche significato politico in quell'operazione forse vale la pena di cercarlo, In fondo non è senza interesse il fatto che un imprenditore finanziariamente alla frutta, come era Berlusconi nel 94, sia riuscito, pur col crescere dei suoi impegni dopo la celebre discesa in campo di quell'anno, a mettere il suo gruppo al sicuro, al punto di incassare con la quotazione in borsa e un primo collocamento di titoli 980 miliardi di lire già nel 96 e di arrivare oggi con un peculio di 12 miliardi di dollari al 25° posto nella classifica di Forbes degli uomini più ricchi del mondo. È come minimo un uomo d'affari accorto, ma al tempo stesso deve essere uno a cui la politica non ha fatto evidentemente del male. Nel suo straordinario successo, si intende, non c'è nulla di poco chiaro, è tutto dichiarato nero su bianco, basta leggere i giornali. Mediaset va benissimo, nel 2004 ha visto crescere il suo utile netto del 35,5%, per un totale di 502 milioni di euro. Il gruppo ha uno share televisivo del 42,96%, una quota di mercato del 34,3% e la sua concessionaria esclusiva ha raccolto da solo il 66,1% della pubblicità televisiva. Persino Bertinotti ha dichiarato che va considerato un asset strategico del paese, un campione nazionale da difendere da qualsiasi pericolo di acquisizione da parte non italiana. L'ipotesi di un governo di centro-sinistra che in un futuro più o meno prossimo si impegna per salvare le imprese di Berlusconi dalla minaccia straniera, come è successo con la Fiat, per intenderci con l'Alfa, può sembrare un po' da fantascienza, ma in Italia sono successe le cose più strane. È politica tutto questo? Beh sì, evidentemente politica. Lo stesso Silvio ha messo più volte in rapporto i due aspetti della sua attività, dichiarandosi certo che tra le componenti della fiducia di cui gode o godeva, chissà, da parte dell'elettorato, andasse annoverato l'apprezzamento popolare per le sue doti di imprenditore. Non ha mai nascosto, anzi ha orgogliosamente ostentato anche nelle recenti polemiche con l'infido Follini il fatto di non essere un politico puro. Ora, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia e si potrebbe benissimo sostenere che questo significa che il nostro, anche come imprenditore, purissimo proprio non è. Nel senso che qualche ricaduta perlomeno indiretta della politica, da qualche ricaduta perlomeno indiretta della politica possa essersi giovato. Non ci sarebbe anche in questo caso nulla di male, ma si tratta comunque di un'ipotesi che i cittadini elettori dovrebbero valutare. Finora, va detto, non sono sembrati annettervi grande importanza, anche se le cose forse stanno cambiando. Ma noi, che un po' ingenuamente vorremmo che i due campi restassero comunque ben separati, a noi non resta che sperare che il Premier prenda ispirazione dal titolo di quel celebre film di Woody Allen, e adesso che ha preso i soldi si decida a togliersi dai piedi.